e benvenute a tutti e a tutte alla nuova puntata di Malaradio. Oggi trasmetteremo in differita un interessante dibattito che si è tenuto ieri sera alla FOA Boccaccio di Monza all'interno della rassegna Labirintus. Il tema del dibattito era: oltre alla repressione, quale azione creativa nella città del profitto? Sono intervenuti Francesco Terzago, autore del libro Poesia di strada e sovversione dello spazio urbano, edito da Agenzia X, Jorge Vaca, autore del fumetto Psicopatia Sexualis, che dette scandalo nell'Argentina tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e Marco Filo, parte direttore di Agenzia X. All'interno del dibattito si è anche parlato della vicenda del film collettivo Colpo di Grazia, che ha portato alla denuncia di due membri della produzione. Data l'importanza del tema trattato e la repressione che è avvenuta a Monza in quest'ultimo anno, ci è sembrato importante registrare quindi questo incontro, come già detto, ed eravamo presenti anche noi di Mala Radio. Ci siamo un po' presentati come progetto nato l'anno scorso, sotto forma di una trasmissione che andava in onda una volta a settimana. Quest'anno invece vogliamo cambiare un pochino e vorremmo raccogliere le voci di chi lotta per raccontare quello che succede, non mediato dai giornali, che mai come in questo momento ci rendiamo conto di quante menzogne raccontano e come la loro narrazione sia di parte. Ci sembra quindi importante portare avanti questo progetto e invitiamo tutti, se volete coinvolgervi, a scriverci alla nostra mail malaradio@autistici.org e seguirci sul nostro blog o sul nostro canale Telegram Malaradio. Adesso vi lasciamo all'ascolto dell'incontro, alla prossima. Parto io dicendo che questa presentazione doppia è un po' strana, ma indubbiamente sul tema della libertà di espressione e dell'accanimento giudiziario dell'autorità contro la libera espressione di soprattutto ragazzi di strada, comunque di situazioni assolutamente indipendenti dal grande mainstream, questi due esempi sono importanti. Uno, questo libro, perché con le parole ovunque, è il primo libro che parla di poesia di strada. C'è mai stato un altro libro del genere, e c'è un focus in particolare alla repressione che ha subito uno dei primi poeti di strada milanesi, che era Ivan. Quindi c'è tutto, tutta quanta la vicenda giudiziaria quasi kafkiana che ha subito Ivan, e questo è raccontato in questo libro. La prima volta che lo presento con Francesco, che è di Spezia, sono due autori, l'ho sempre presentato con Mr. Chaos, e sono contento che anche la prima volta ce l'abbiamo fatta, grazie appunto al Boccaccio. Mentre invece Jorge è un personaggio, Jorge, guardate, lui è argentino. Tra l'altro qualche anno più di me, anche se non sembra, perché sei tre giovani, non capisco mai come non si invecchia mai, no? Lui era un militante politico nella Buenos Aires dei generali, figuriamoci, quando era un ragazzino. Ha subito anche due false esecuzioni con la pistola, per dire, che poi è scappato, vero? Da ragazzino, è arrivato in Italia nel 68, 69. No, 86. L'anno in cui sono nato io. Lui ha vissuto tanto nelle case occupate, soprattutto in Gorizia, la casa di Gorizia, e ha iniziato la sua attività di editore quasi subito, nei primi anni 90. Sì, 5-6 anni poi ha iniziato, grande percussore, perché Allora, nonostante in Francia, in Germania, in Spagna soprattutto e anche in Inghilterra l'editoria fumetti aveva un grande successo, in Italia invece era ancora allora legata alle ambienti underground oppure quelle di World Business Mainstream, di Andorra, abbiamo avuto questa intuizione molto vicino all'ambiente dei fumetti francesi che spagnoli, ha iniziato questa sua attività di editore con una casa editrice che si chiama Topolino Edizioni, una bellissima storia. Con Topolino Edizioni, poi ce lo spiegherà lui, ha fatto uscire dei libri di artisti di tutto il mondo sostanzialmente, e con argomenti assai scivolosi, tipo la droga, il sesso, il politicamente non corretto e tutte queste cose, e ha subito diversi problemi che adesso lui ci racconterà. Dopodiché lui aveva fondato anche una galleria d'arte, si chiamava Cueva Noah Gallery, sempre in Gorizia, che ha fatto delle mostre eccezionali, bellissime. Mentre la sua attività di editore, dopo tutti questi processi che lui aveva subito, vedete, non finire tutto quanto, l'ha chiusa, e praticamente dopo la Topolino Edizioni sono cominciati a nascere finalmente delle case editrici che facevano dei fumetti fino ad arrivare alla Bauer di Zero Calcare. Diciamo che dopo la Topolino Edizioni ha aperto un tipo di espressione legata al fumetto dell'underground che prima non c'era. Legato al bambino, esatto. Poi si è messo a fare, a un certo punto ha iniziato a organizzare delle serate di tango anarchico dentro alla cueva, che sono state di un successo clamoroso che non aveva mai avuto con i suoi libri, che venivano anche pancabeste, che si toglievano le scarponi, si mettevano le scarpettine per ballare, che ballavano tango tutte le sere lì alla cueva, e adesso lui gira il mondo facendo il DJ di tango, ha girato per 43 paesi a mettere tango, quindi è una fortuna che l'abbiamo trovato qui a Milano adesso, anche però, perché era da due anni con Polizia che lui è abbastanza fermato purtroppo. Niente, questa è la presentazione di questi due personaggi. Francesco in più è anche un intellettuale raffinato, infatti diciamo che la parte teorica di questo libro è stata affidata tutt'altamente a lui, mentre invece Mr. Chaos ha fatto questa mappa di tutti i vari collettivi in Italia e nel mondo che fanno poesia di strada. La poesia di strada nasce come insieme alla grande boom della street art, però allo stesso tempo molto legata anche alla musica, perché la poesia sappiamo benissimo che con l'arrivo dell'hip hop ha dato grande possibilità di essere capita, assorbita e riespressa anche dalle culture provenienti dalle periferie, dagli internet delle grandi città, e quindi così ha avuto un nuovo sviluppo improvviso, no? Da una parte questa qua, dall'altra parte appunto l'avvento della street art, che anche lui in qualche maniera ha a che fare con la sua radice nella cultura hip hop, e praticamente da metà degli anni 90 la cosa diventa sempre più grossa e sono apparsi in tutte le strade del mondo, oltre ai lavori dei writer, anche i lavori dei poeti di strada. Poeti di strada, appunto, con le parole ovunque, è proprio un tentativo anche di entrare in competizione con gli schermi televisivi che si infestano in tutte le città, le zone pubblicitarie per far vendere delle cose, la poesia non vende niente, la poesia è un regalo che si dà ai passanti che magari si fermano a leggere qualcosa di molto interessante, questo senso la sensazione del proprio titolo. Ma ho detto abbastanza, io direi che io innanzitutto voglio ringraziare insomma di questo caloroso benvenuto, è bellissimo trovarsi qui con tante facce, tante persone con cui si può condividere un processo editoriale e poi una narrazione, perché inevitabilmente quando si va a redare un libro come questo c'è un'opera di montaggio, si stabiliscono dei confini e la nostra telecamera si muove all'interno di tante vicende. Quello che volevo insomma portare come contributo oggi si muoveva su due direttrici principalmente. Uno, la collocazione di quello che è questo fenomeno, e dall'altro le caratteristiche specifiche della pubblicazione. Perché quando ci si trova a lavorare su una materia viva come questa si possono compiere tanti errori. Degli errori si avrà in ogni caso a compierli, ma per me, per quella che è la mia impostazione, volevo evitare che ci fossero alcuni problemi all'interno di questo libro. Innanzitutto che ci fosse una sorta di pensiero di colonizzazione sul lavoro che stanno facendo le persone, di antagonismo nelle città e di restituzione e riappropriazione dello spazio urbano. Quindi il bel racconto romanzato di un fenomeno che è vivo e vivente, e anzi nel momento in cui si inizia a imbrigliarlo all'interno di un dispositivo critico si rischia di ucciderlo da un certo punto di vista, cioè di cristallizzarlo e quindi di trasportare il focus, il pubblico di questa cosa dalla comunità alle gallerie d'arte, per esempio. E da questo punto di vista evitare di fare un manifesto. Perché generalmente i manifesti segnano, perlomeno nel Novecento è stato così, non la nascita ma la fine di un fenomeno. Oltre a questo, ciò che mi premeva era anche evidenziare quelli che possono essere dei problemi che chi con spontaneismo affronta tutto questo si trova a dover affrontare, problemi che insomma sono logicamente quelli dei dispositivi repressivi, ma anche quelli di essere poi eventualmente sussunti dalle stesse forme, dagli stessi dispositivi di immaginario capitalista nel quale viviamo. Cioè, mi spiego meglio, andare in strada e diventare brand non vuol dire in molte occasioni cercare di viralmente invadere un immaginario e quindi contagiarlo e sovvertirlo, ma può essere un'operazione tra virgolette di entrismo che poi ricolloca l'artista, l'autore in qualcosa che non dovrebbe essere il suo ecosistema, almeno nel momento in cui vuole fare davvero un'operazione di attivismo, davvero un'operazione che è antisistema. Quindi tutto questo io lo volevo raccontare attraverso una serie di testimonianze, di interviste, e anche collocando questo in una sorta di genealogia di ciò che è la poesia di strada, perché quello che noi oggi chiamiamo poesia di strada è un insieme di esperienze umane, di persone che hanno deciso di uscire dal confine di Bresco, di opporsi al confine di Bresco e dire la mia voce, al di là del risultato qualitativo che può avere, deve entrare nello spazio di tutti e deve essere un'occasione di poeticità, di poetica. Che cosa intendo dire con questo? Che la poesia è un genere che è gerarchicamente sottoposto ai confini dello spazio letterario, quindi della filologia e delle discipline a storia letteraria, con i limiti che questo può comportare. Un esperimento di poetica è qualcosa che invece appartiene all'estetica, è quel momento in cui una persona che attraversa una città, una strada, improvvisamente è obbligato, per un input che ha ricevuto, a sospendere tutto ciò che lo riguarda, gli scorni della vita quotidiana. E quindi vedo quella scritta si impianta all'interno del mio cervello e mi accompagna, mi obbliga per un istante, insomma, sovverte appunto quella che è la mia quotidianità e quella che è la mia routine. Per utilizzare le parole di un padre della sociologia di Simmel, porre fine alla condizione blasé. Cioè, la condizione blasé è quella che separa le persone all'interno della città. Cioè, che fa sì che noi incontriamo persone per la via e non siamo interessati al fatto che abbiamo incontrato un altro essere vivente, ma è soltanto uno degli innumerevoli input che la città può darmi. Non è nulla, non esiste, è semplicemente un volume fisico che mi viene per la via. Un evento di poetica può sospendere tutto questo, cioè è un'immagine, sono dei caratteri, sono delle parole che mi obbligano a uscire dalla mia condizione metropolitana e dall'albero. Perché vi sto dicendo questo? Perché all'interno di questo libro c'è un'immagine di ciò anche che secondo me è sbagliato in termini di dimensione della creatività urbana. Cioè andare nello spazio inselvatichito, in un terzo paesaggio, in una cava dove la natura sta riprendendo il sopravvento, e sulla pietra, la pietra che ricomincia a essere colonizzata dai muschi, dai licheni e dalle piante, cancellare questa riappropriazione e con i colori prodotti dall'industria della chimica fare un grande murale. Io in quel caso non sto facendo un gesto di sano ribellismo nei confronti di una città che mi opprime e di una condizione metropolitana che allontana le persone, ma sto colonizzando con il mio schema espressivo uno spazio che sta tornando a essere della natura e che quindi sta tornando a essere dei viventi e di tutto ciò che è fuori dalla nostra programmazione, la programmazione che anche degli urbanisti, ed è fuori dal controllo dell'essere umano e che quindi di un essere umano che nomina gli oggetti che in quel momento esistono. È bello che certe cose non possano essere nominate e che quindi esistano al di là di una condizione di dominio. Questo è la prima pillola, insomma, che avevo immaginato per oggi. Sì, così. Non so se no, provo a farti delle domande io, così almeno. Ma innanzitutto la questione legata anche all'iniziativa del Boccaccio è che anche la poesia di strada come i writer sono sottoposti comunque a delle riflessioni in giro per la strada, no? E in questo libro si parla appunto di quello che è successo a Ivan, no? E in qualche maniera sarebbe bello raccontarti un po' quello che è successo a Ivan. Sì, assolutamente. Ivan, forse lo conoscete, è forse quello più attivo nel ruolo milanese, che ha fatto un sacco di scritte, tuo stile che è molto riconoscibile. Io all'interno del libro, per esempio, propongo un'analisi che è meramente linguistica del lavoro delle scaglie di Ivan, perché a volte più che appunto collocare il lavoro di un autore all'interno di una geografia che può essere anche storico-critica, è necessario parlare degli strumenti, perché parlare degli strumenti dà la possibilità a chi voglia operare similmente di avere un punto di partenza e quindi fare proprio una pratica. Ivan è una figura come molte altre della creatività urbana che ha acquistato popolarità ed esposizione mediatica nel corso degli anni e l'ha posto in quell'interregno nel quale quando ciò è necessario, diciamo pure alle forze del capitale, il suo linguaggio espressivo viene acquisito anche indebitamente, se così possiamo dire, dalla pianificazione urbana, dalle pubblicità, da un comune che quando ha la necessità di fare un po' di washing utilizza delle sue scaglie, per poi parimenti ricevere delle citazioni in giudizio e essere sottoposto a una persecuzione da parte di quelle stesse istituzioni che su un altro piano lo esaltano e utilizzano ciò che è il suo lavoro per dare un'immagine, per produrre un'apparenza di ciò che è una città. E quindi raccontare una città inclusiva, una città dove lo spontaneismo artistico è ben accetto, una città nella quale si possono costruire processi, diciamo, performativi nei quartieri e che coinvolgono figure come Eva, ma che sono soltanto acceleratore di un linguaggio, perché recepiscono urgenza e necessità dalle persone che abitano, che popolano un luogo tutti i giorni. Tutto ciò viene poi trasferito in un altro contenitore, un contenitore sostanzialmente pubblicitario, un contenitore che produce un'identità di un marchio, che è il marchio del Comune di Milano, ma che allo stesso tempo non può rinunciare alla sua dimensione culturale e sostanzialmente capitalista e di visione sulla proprietà. Una proprietà nella quale deve essere sempre ribadito che i luoghi hanno una titolarità del bene, cioè che i luoghi sono posseduti da qualcuno e quel qualcuno non è, diciamo, una comunità con un volto indifferenziato, ma è nome, cognome o una ragione sociale. Allora questo logicamente crea una fortissima contraddizione in termini e un'incoerenza evidente di quello poi che è quelli che sono poi gli strumenti di amministrazione. Ho risposto alla tua domanda. No, vabbè, non tanto. Cioè, allora, no, Ivan, poi ci siamo anche appassionati a fare un'intervista a Ivan su questo libro, perché lui ci racconta la sua vita e racconta ad esempio il momento in cui per la prima volta da ragazzino vede un graffiti, vede una davanti alla sua scuola media, si imbatte contro un graffito. È un ragazzino sicuramente sveglio tutto quanto e nel momento in cui guarda quel graffito, quel lavoro che poi era al Giambellino, perché lui abitava nel quartiere della Barona al Giambellino, andava in questa scuola media dove c'era, per pura sua fortuna, questo muro che era uno dei primi muri dei writer milanesi, e quindi ogni mattina lui andava davanti a questo muro prima di entrare alle scuole medie. E poi quando andavano a scuola, lui racconta che l'argomento più importante era quel graffito che c'era alle spalle, almeno per quanto riguarda lui. E questo per farci capire quanto lui sia stato fortemente influenzato dalla visione di questo muro pieno di opere di Breiter, anche se lui era un appassionato di poesia. E questo passaggio proprio del fatto che un ragazzino vede prima dei graffiti e poi dopo cerca di sviluppare la sua passione per la poesia in una situazione simile a quella che aveva avuto il flash iniziale, ci fa capire quanto sia importante, soprattutto per le generazioni più nuove, più giovani, è quella di invadere lo spazio pubblico. Lo spazio pubblico diventa quel luogo dove riuscire a esprimersi, quel luogo dove puoi metterti anche in conflitto con una società che tu non riconosci. E senza intermediazione. Sì, visto che tu fai già un'azione che ha superato il muro della legalità per entrare in una zona grigia che non si sa se è legale o illegale, insomma. Tanto più che poi tutta la sua vita segue un po' lo sviluppo e anche il boom della street art, no? Assolutamente. Siccome è uno dei primi, subirà un sacco di processi per questo, soprattutto uno perché è proprio Cappiano, per una scritta chi semina, non ricordo mai di mica. Che nel vento farà fiorire il cielo. Sì. In zona d'Arsena, proprio vicino alla casa che parlavamo prima di Via Gorizia, e questo processo si andrà avanti per non so quanti anni. Meno male, con lo sviluppo della street art, Ivan riuscirà comunque a uscirne fuori abbastanza indenne. Sì, ecco. E comunque questo tentativo, adesso per collegarmi un po' in maniera un po' azzardata a Jorge, noi punk negli anni 80 non avevamo questa possibilità perché non si era ancora sviluppata, però già aggredivamo le pareti della nostra città, non più quello che facevano i nostri fratelli maggiori con i grossi murales di stampo politico, noi eravamo molto più distopici, eravamo anche la generazione di No Future, quindi, no? Però già iniziavamo a fare gli stencil. Stencil è una pratica che noi punk utilizzavamo tantissimo, no? Con lo slide, perché c'era una roba mordi e fuggi, andavamo veloci. Però noi indubbiamente avevamo come grande palestra di espressione oltre alla musica, che veramente quella c'è sempre, anche la carta stampata. La carta stampata che infatti sul libro di Francesco e di Mr. Caos noi ci siamo posti la questione, finalmente facciamo qualcosa su carta stampata anche riguardo una pratica che così mordi e fuggi e comunque si esprime nello spazio urbano, certo, su fogli stampati. Anche perché questo libro al quale abbiamo lavorato insieme è un libro che ha dei confini estremamente porosi, cioè il libro è il pretesto per invitare tutti coloro che vogliono di appropriarsi attraverso la testualità, perché la poesia di strada è fatta di testualità, dello spazio urbano. E anzi, tutte le interviste che abbiamo raccolto per fare questo libro ci raccontano di persone che, come lui giustamente diceva Ivan, nell'adolescenza, attraversando il dispositivo della scuola, che è una scuola omologatrice e che propone delle gerarchie culturali molto forti, perché ci sono autori che sono censiti e sui quali si fa didattica, autori che non esistono, e questo è importante dirlo, ha fatto sì questa costrizione che molte persone decidessero di scrivere non più affidandosi a un processo editoriale, diciamo, attraverso quelle che erano i bandi, le case editrici di poesia, ma portando i loro messaggi, che erano messaggi contro uno spazio letterario, come generalmente si intende, spazio letterario, diciamo nei termini in cui la critica letteraria usa questo termine, cioè quell'ecosistema anche relazionale di autori. E quindi dire io non voglio scegliere di avere un pubblico che sono generalmente i poeti e i critici, perché il mondo, diciamo, della letteratura italiana non solo funziona presto poco così, ma che siano tutti gli abitanti della città. E quindi anche le scelte linguistiche che farò sono scelte accessibili, sono scelte di chiarezza, sono scelte di immediatezza, senza allo stesso tempo rinunciare a quella immagine che vi portavo prima della poeticità. Eravamo la carta stampata, no? La carta stampata che appunto ai miei tempi era una grande possibilità anche di comunicare con tutti gli altri. Adesso, soprattutto una decina di anni fa, sembrava che la carta fosse in qualche modo finita in cantina. Negli ultimi 10 anni invece c'è stato, ne avevamo parlato prima l'altra volta quando sono venuto qui con l'edicola che non c'è, la carta ha ripreso un po', soprattutto con delle fanzine, sempre più settorializzate, più come una volta, a essere prodotti in grandi quantità. Ma sicuramente negli anni 80 c'era questa ancora forza della carta stampata, e proprio in quell'occasione che Jorge decide di aprire la sua casa editrice. E quindi ci sono in qualche maniera. Sì, perché io vengo, come diceva Pedro Marco, dell'Argentina, dei militari, dove la repressione, la censura era l'ordine del giorno, continuamente. E provengo da un ambito che era il giornalismo e il fumetto, principalmente il fumetto, no? E gli autori argentini, la famosa scuola argentina, era molto potente, molto politica, no? Per quello la maggior parte erano esiliati, l'Argentina, poco del loro materiale si conosceva. Io arrivo qua in Italia, mi inseriscono in situazioni che mi state occupate, conosco diversi ragazzi che erano interessati al fumetto. La mia prima esperienza è stata con un ragazzo del centro sociale di Caldasole, Matteo Giordati, e abbiamo fatto una fanzine che si chiamava Fu. E da lì in poi mi arriva in mano c'è tanti autori, sia argentini, spagnoli, interessanti, che nessun editore italiano voleva pubblicare, cioè per il contenuto diciamo abbastanza forte. La idea con un altro amico argentino diciamo, va bene, facciamolo noi, no? Cioè, un'autoproduzione. E abbiamo cominciato, tutto cominciato nella casa occupata di Via Maurizia, parte del logo che noi avevamo formava parte del mural che c'era nella casa occupata, e sono stato poi Adamo la fa, no? Nell'ebraico milanese, Adamo ha fatto questo topo. Questo topo con la bomba in mano, una bomba in mano. E il nostro logo era se, una bomba di fondo che la faccia di un topo, di un topazzo, stato di Beagle Sing, abbastanza cattivo diciamo. E il nome Topolino. Sì, il nome Topolino. E non è che faceva anche la referenza Topolino. Topolino, sì. No? Nostro primo libro è Hitler uguale a se, le due autore francesi, Guglielmin e Boglio. È un libro umoristico, scelto per non portare. Perché non c'è morto, io sono morto. Un libro fondamentalmente umoristico dove in Francia è stato censurato ad eternum, in Spagna non solo censurato, sino denunciato degli il libro tratta più che altro, prende in giro tutto quello che è stata la situazione nazista, cioè anche di campi di concentramento. Ma ride sia da una parte che dall'altra. In Spagna ha avuto le denunce delle associazioni naziste, quelle di destra, anche delle parti delle comunità ebraiche. No? Noi abbiamo detto, questo è il libro. Perché il nostro slogan, diciamo, abbiamo cominciato così, c'è tutto fotografiato, era qualcuno deve colpare il lavoro sporco. E quando portiamo quel libro al tipografo di Cremona, c'è lui le stampa tutto, e il tipografo ha l'obbligo per legge di ogni cosa che stampa deve portarla in questura e ha un tempo di 40 giorni. Lui appena stampato lo ha inviato in questura, no? Gli hanno detto no, vedi, finiremo su questo caso, però noi abbiamo avuto il tempo di prendere le copie e cominciare a vendere. E nel Luca 90 è stato il grande scandalo del Salone Luca, il Salone Luca dei comics, no? È stato il scandalo per la presentazione di questo libro. Si sono venuti tutti incontro. Però non abbiamo avuto il problema di censura. Abbiamo avuto critica di destra e di sinistra, da davanti, da dietro, da tutte le parti che erano in me. Continuiamo con un autore che conoscevo, che è un bellissimo amico, Miguel Ángel Martín, no? E che pubblica in Spagna Psicopatia sessuale. Però prima di Psicopatia sessuale ha fatto uscire una edizione in CEP. No, no, giusto prima, sono sicuro. No, prima. No, prima Psicopatia che è stato sequestrato. Ah, e perché è stata due Psicopatia, c'è stata l'edizione che ci hanno sequestrato, poi l'edizione che è tirata. Questa di Psicopatia era sottotitolo è il momento più violento e rovinante mai di tenuto. Ha un momento molto forte nel panorama del mercato che c'era in Italia, era sovrattivo, si può dire. E ci è successa la stessa cosa con il tipografo ci ha denunciato. e quel fatto arriva vivo, ci arrivano tutti alla tipografia e lo censurano. Se questo è stato in tipografia, è un sequestro preventivo quello che fanno. No, noi siamo rimasti senza niente e lì sì che facciamo il libro del CEE, il libro dell'Alto Brescia, Estro Estrese e Enrique Brescia, che quel libro ha un'altra storia particolare in censura. Sono dei momenti più importanti per il lavoro. Quel fumetto dell'Argentina del 69, questi tre autori, perché Alberto Ghezza penso che è uno dei massimi del mondo del fumetto, cioè da lui ci hanno ispirato Frank Miller e tantissimi altri, no? Fanno questa la vita di Che Guevara. Che Guevara era appena morto nel 68, e Coronister, che è il più grande disegnatore argentino, decide di fare questo fumetto con tutta la storia, la vita di che ha fatto un casino benissimo. E l'Argentina nell'anno 70, nel 77 cosa succede? Nel 76 arrivano i militari, no? E decidono di tutto quello che erano pubblicazioni sovversive, quello che per loro erano pubblicazioni sovversive, bruciare tutti i libri, farli sparire. Alberto Reggio, il disegnatore, prende una unica copia di quel libro e lo sotterra nel suo giardino. Tutte le copie sono bruciate, sparisce il libro e sparisce l'autore, Héctor Germán Westerfeld, che è l'autore di un altro documento molto conosciuto che è L'Eternauta, lo so chi per conosce. E lui è tra la lista dei 30.000 desaparecidos che c'è in Argentina. Tantissimi anni dopo, già anni 90, conosco a Brescia, nel Salone di Luca, quando abbiamo presentato il libro del Sese, e mi facevo i complimenti per questa autoproduzione che facevo. Lo dico la giornata. Sì. E mi racconta questa storia, e dico, e lo possiamo avere anche noi, se possiamo pubblicarlo noi? E, no, perché nel frattempo col figlio, dopo finita la dittatura militare, era tutto il cellulare raro, no? No, era lui stesso che dopo la dittatura, che già negli anni 80, lo dico terra, e le resta una copia e viene fuori una copia spagnola, che però molto di nascosto, c'era venuto poco, no? E le dico che c'erano, allora, possiamo avere noi, però per altro, cioè noi avevamo i diritti per fare quel capolavoro. Recupero la copia, di quell'unica copia si ha fatto una copia spagnola, e riesco a recuperare la copia spagnola, l'hai tradotto te? No, io sto aiutando a fare il detenuto, e finalmente siamo riusciti a fare, se quello che per noi ancora oggi è un onore, no? Se aver stampato quel libro. Sì, praticamente la Topoli dopo l'Inter Sette, che è lo stesso casino, dopo Psicopatia Sessuale, si era successo un altro casino, fa questo libro qua, che vende tante copie e comunque si fa conoscere la Topoli edizione, perché il CE, se vi capita di trovare, adesso lo potete vedere pubblico. Sì, no, ora è stato recuperato nel fondo, è stato recuperato. Ora si trova, se vi capita di andare a vedere, è bellissimo, anche perché anche se divisa il personaggio di Hitler, cioè molto il suo lato più umano, anche oltre ad essere la storia vera e propria, che è comunque una storia straordinaria quella del CE. E quindi la sua polinizione diventa comunque un patrimonio, diciamo, del movimento, tutti quanti cominciano a conoscerla e a difenderla, e a quel punto. Cioè, a quel punto c'è nell'edizione pirata che noi ci siamo molto piratati, le psicopatie sessuali. No? Ristampano le cose che erano state sequestrate di là. Teoricamente abbiamo fatto una cosa completamente illegale, che sono autopiratati, capito? Fatto un tempo psicopatia, cioè già aveva questo nome maledetto, no? Dove cioè, la gente aveva sentito nominare che è un libro particolare, Abbiamo avuto della recensione nel bene e nel male, ancora oggi se discute molto su questo, era moralmente sano addirittura, se erano venuti fuori quelle parole. Passa un tempo e che succede? Un giorno entro a casa mia e vedo la porta spalancata e dentro mi trovo con 12 personaggi che non sapevo chi erano. Vigo, vigili urbani e polizia, no? Cioè, facendo una perquisizione. Una settimana prima avevamo fatto il primo Comic Con di Napoli con le opere di Miguel Ángel Martínez, l'autore di Psicopatia, in Castel San Telmo, con un patrocinato dal Comune di Napoli, non so, l'Istituto Europeo, altri istituti, e ora avevo una Vigo in casa, no? 12 persone che in una maniera violentissima, se non utilizzata perché non sono morti di loro, hanno ribaltato tutto. Hanno sequestrato tutto il materiale. Parallelamente stavamo pubblicando Brian the Brain, che è un altro fumetto, sempre il suo produttore di Psicopatia Sessuale, che è completamente diversa dalla di cosa si tratta, no? E loro si prestano tutto il materiale. Avevamo un altro libro che era Sesto istruzione per l'abuso di Álvarez Rabo, che è l'abuso di secco, no? Che è l'abuso sessuale. No? E si prestano tutto questo materiale, le portano in questura e chiamano tre specialisti, non so di che cosa, e guardano i fumetti e dicono: Brian Drain ha sequestrato perché ci sono troppi da denunciare. Psicopatia sessuale l'abbiamo, no, cioè questo va annunciato. Quest'altro, se si succede per l'abuso, è un manuale per l'abuso sessuale. Io non ho detto se non avevano capito assolutamente niente. E si porta avanti il processo prima che. Al primo processo che avevamo si aggiunge quest'altro, no? con tavoli originali di quelli che erano stati a Napoli, anche quelli sequestrati, e lì è tutto. Istigazione del delitto, istigazione del suicidio, istigazione della pedofilia, ossessività e immagini della capricciante. Queste sono i cantati del delitto. Noi siamo rimasti nella merda, come si dice, perché tutto il materiale che avevo era lì. Grazie al movimento, grazie a tanti. In Conquista abbiamo fatto tante iniziative. Tante iniziative. A Caldo Bundi. Sì, 99 Pozze, una tournée, c'è. Una tournée per parlare di avvocati. Sono stati da Oliverio Toscani, Mica Monaga, che avevano scritto sul manifesto una pentola, dopo Musi, cioè, poi tutto il movimento. Abbiamo portato una mostra in tutta Italia, con le fotocopie di Psicopatia Sessuale, no? Dopo sarà nel 2001, cioè 2001-2002, che viene poi la sentenza di che eravamo assolti, no? Perché il fatto non sussiste. Per tutto questo a noi ci avevano distrutto economicamente, noi abbiamo dovuto cambiare le rubro perché non era più possibile sostenere. È lì che abbiamo aperto la galleria d'arte, perché in questo ambito mi ero fatto conoscere da tanti artisti, cioè, famosi, grandi artisti, e abbiamo aperto questa galleria d'arte, no art, no? Trasportando grandi artisti a Milano. In tutto il mondo. E tutto il mondo, sì, un applauso. Io devo fare una domanda pesante, anche per strutturare il discorso. Innanzitutto volevo chiedere a Francesco, facendo una premessa, noi del Boccaccio un mese fa abbiamo lasciato una Colpo Artist, a cui alcuni ragazzi e ragazze del collettivo di Monza hanno partecipato a concerti, illustrazioni, fotografie, e mi sembra la, diciamo, la corporatis era quello di mettere in pratica un po' tutti i discorsi teorici che oggi sarebbero stati fatti. E per l'appunto l'intento era quello di invadere lo spazio urbano con dei manufatti artistici che potessero appunto nel singolo passante, dal libro borghese montese al ragazzino del quartiere popolare, leggere appunto o leggere o guardare una cosa che stimolasse quasi un pensiero, un modo, diciamo, diverso rispetto all'avvertimento che si vede solitamente per le strade del centro o in mostra in generale. E volevo dire appunto il Twitter, secondo me, sulla carica sovversiva, vuol dire questo dettaglio, che forse si innesca proprio nel rapporto tra il pubblico, questo pubblico che in realtà dovrebbe essere infinito, della poesia di strada, e che può raggiungere per appunto qualsiasi classe sociale, quindi innescare un discorso di sovversione all'interno di qualsiasi classe sociale, e appunto il testo, cioè il testo in qualsiasi sua forma, diciamo, possa assumere su un muro, che possa essere una tag o un writing, un testo poetico, o appunto volevo che ci parlassi ancora di più di questo rapporto qui. E una seconda domanda era se ci volevi dare, perché so che hai vissuto 2 anni in Cina e che hai studiato in Cina il fenomeno della street art, se ci volevi dare un punto di vista diverso rispetto a quello occidentale su un fenomeno del genere, perché noi siamo immersi completamente in un certo tipo di linguaggio anche che ci pervade, che magari al di fuori dell'Europa o dell'America percepiscono anche un modo completamente diverso. E poi volevo chiedere dopo a Jorge di parlarci invece del rapporto, cioè tra l'istruzione e gli strumenti esercizi che l'istruzione usa quando vede qualcosa che non vuole far circolare, come per esempio le psicopatie sessuali, e appunto la figura dell'editore, cioè la figura dell'editore che si relaziona con l'istruzione in fatto di arte. Questo perché anche la vicenda di Secondo Sexualis include un sequestro che è quello che è avvenuto anche in modi diversi, con motivi diversi, anche agli autori del Corpo di Grazia, il film che è presente. Allora, io credo che una sezione abusiva, una scritta su un muro, sia un atto che in sé ha una sua violenza politica. Non c'è nulla di male da questo punto di vista nella violenza politica, perché questa contestazione, questa energia, il sale, se vogliamo, insomma, di una democrazia, se proprio vogliamo intenderla in questi termini. Perché un collettivo o un individuo esprime una sorgenza là dove non gli sarebbe concesso, e quindi infrange uno dei tabù più forti della nostra società, che è quello della proprietà privata. Ogni volta che io scrivo qualcosa sul muro di una città, sto dicendo che la città è di tutti. Di me, che posso anche scrivere una cosa sdolcinata, quella classica scritta Milena ti amo, invento, come chi invece decide di portare poesia, decide di portare una tag, decide di portare un pezzo di, diciamo, di street art. Quindi ogni volta che io opero in questo contesto sto agendo una violenza politica legittima, assolutamente legittima, perché è proprio andare a indicare quello che è uno dei problemi, il massimo problema forse col quale ci ritroviamo ad avere a che fare. Quindi c'è anche un'intersezionalità in questa cosa. Se io mi trovo, e uso questa immagine per far comprendere l'importanza del contesto in cui agiamo, perché se la città è una pagina di un romanzo, nel momento in cui io vado a cambiare delle frasi, sto intervenendo in un progetto che mi è stato dato e che io devo in teoria acquisire, ma non lo voglio acquisire perché questo romanzo, questa narrazione nella quale noi ci muoviamo, che attraversiamo, non ci piace. Se io raggiungo un villaggio della comunità Valle, perché è una minoranza linguistica germanofona che c'è in Italia, sono poche migliaia di individui, e attraverso uno di questi paesi non troverò nessuna scritta sul muro, perché non è necessaria, perché quella è una comunità nella quale molto circoscritta, nelle quali le persone si conoscono, si parlano e hanno una adesione, in un certo senso, a un progetto comune, o perlomeno a un'identità che poi è ovviamente variegata e molto più complessa, ma che è identificabile. Per cui quando io che appartengo a quella comunità mi muovo per questo paese, so che là ci vive una famiglia, che là ci vive qualcun altro, e ho in mente quella che è una, un ecosistema delle relazioni di queste persone. Se però io che non ho presente tutta questa mappatura, perché non appartengo a questa realtà sociale, vado lì con la mia bomboletta e scrivo sulle fondamenta di granito di una di queste abitazioni, non sto operando un gesto, diciamo, anticapitalista, sto facendo dell'altro, cioè sto imponendo un'immagine urbana in uno spazio dove potrebbe benissimo non occorrere. Quindi colonizzo con la città uno spazio che non è città. Quindi questo per richiamare sempre l'importanza al luogo dove sto operando. Se ovviamente, giochiamo nel paradosso, una persona che appartiene a quella comunità decide di scrivere sui muri di tutto il suo paese, cosa deve fare? Cioè, penso nessuno glielo impedirà. Io sì, ho vissuto 2 anni in Cina con un progetto di borse di scambio tra l'Università di Padova e un'università, la Guangzhou University. Proposi di andare là a studiare il diffondersi della street art in Cina, perché a partire dai primi anni 2000 la street art in Cina era diventato un fenomeno pervasivo delle città cinesi, ma soprattutto un fenomeno che parlava il linguaggio espressivo della street art occidentale, perché la Cina negli anni precedenti aveva conosciuto una creatività urbana, i Tazbao per intenderci, o la produzione spontanea di poesia sui muri delle città, o gli esercizi calligrafici performativi delle persone che nelle piazze comuni esercitano la calligrafia come una forma estetica comunitaria. A un certo punto, a partire dai primi anni 2000, molte persone, ragazzi e ragazze che facevano parte dell'Accademia delle Arti, hanno iniziato a scrivere, a fare murales come noi li conosciamo in tutte le città, diciamo, dell'Occidente. E questo per alcune ragioni. Uno, perché erano stati soggetti a un soft power occidentale, perché quella era la prima generazione che parlava inglese accedendo a un livello di uno, che poteva affrontare dei prodotti culturali che provenivano dall'Occidente con un certo grado, diciamo, di competenza. E poi perché in quel momento mettere nel proprio portfolio di aver fatto un pezzo in bubble style poteva essere utile, poteva essere utile poi quando di fronte al principale committente, che è lo Stato, sarebbe stato una persona, fosse stata chiamata a fare un murale, poche parole. E oltre a questo, perché in Cina, benché le ultime modifiche costituzionali abbiano a pieno titolo inserito la proprietà privata, è una proprietà privata estremamente subordinata all'interesse pubblico stabilito dal Partito Comunista Cinese, per cui i beni immobiliari sono sotto concessione in ogni caso da parte del dispositivo Stato, e quindi più che nella città occidentale esiste una fortissima ambiguità su quella che è la appartenenza di un muro, se dell'azienda di real estate cinese che ha fatto le nuove palazzine, o se delle persone che la attraversano tutti i giorni. Tant'è che dalla vicina Australia molti artisti si sono trasferiti in Cina, perché per fare murales in Cina in quel periodo storico non comportava problemi di carattere legale, a meno che non si attaccasse esplicitamente il Partito Comunista Cinese. Ma anche un murales su tematiche ambientali non avrebbe comportato nessun tipo di problema. Chiudo diciamo con un'immagine. Ovunque c'è storia, l'invenzione diciamo più straordinaria per Isaac Asimov, ovunque c'è storia, ovunque c'è civiltà, c'è una cultura che è capace di diffondere un certo grado di alfabetizzazione, esiste città, esiste metropoli ed esistono scritte sui muri. Se noi andiamo nei siti archeologici in Medio Oriente, troviamo scritte sui muri in almeno 3-4 idiomi differenti, e che possono andare da graffiti di contenuto poetico a puri ammonimenti come quelli che si sono trovati a Pompei del Colano. Quindi, dove si generano dei rapporti tra le persone, qualcuno decide che è necessario ribellarsi a un dispositivo e portare il suo messaggio, che può essere per assurdo anche un messaggio elettorale, questo accadeva a Pompei, nello spazio pubblico. Quindi esercitare una forma di risignificazione, perché nel momento in cui io inserisco dei nuovi segni in uno specifico contesto, muto la relazione che c'è tra tutti gli altri, e quindi di appropriazione di comunità o individui di quello specifico luogo. Spero di aver risposto. Posso usare una cosa a quello che dicevi? Per esempio in America Latina esiste un movimento che si chiama Acción Poética, no? E ogni quartiere, per esempio in Buenos Aires, c'è una sede di Acción Poética. Sono i vicini stessi a chiamarli a loro per farli scrivere i muri. Sì. Questo mi è sembrato, cioè, questo già da una decina di anni, un'azione fantastica. Ah, sì, sono proprio i vicini. Sì, certo. L'abbiamo mappata. Sì, ma infatti la cosa bella è che su cui vorrei insistere ancora è che la poesia di strada ha recepito la necessità di essere esercizio di comunità, cioè operare anche alla luce del sole, dedicando all'intervento su un muro anche parecchie ore, perché quella cosa deve essere testimoniata da chi vive, le persone che vivono devono interagire col testo, se non sono d'accordo lo devono significare. E quindi uno che per assurdo non appartiene a una borgata, a un quartiere, deve essere una cartina attorno al sole comunque di queste persone. Cioè non deve essere un'azione di cosmesi urbana. Io non sto mettendo il trucco alla città per poi fare il bel murale su Instagrammabile col selfie. Io sto facendo qualcosa di diverso, anzi la poesia di strada non necessariamente è scritta con un bel lettering, con un bel font. Perché quello potrebbe ricadere in una dinamica negativa che è di brandizzazione. Cioè non sto costruendo un marchio che prendo il nome della sua maniera. Cioè devo anzi fare qualcosa, anzi che a volte se dà fastidio perché è scritto tra virgolette male, tanto meglio. Come chiedevi sulla funzione dell'editore di fronte alle istituzioni, quello che noi abbiamo presentato era innanzitutto era noi volevamo questo che era accentuare sulla libertà di espressione del pensiero. Per esempio il primo giudice che ha fatto con il primo metodo trovato faccia a faccia e che ha assolto in un primo momento il primo grado, no? Lui ha fatto una recensione dell'opera, delle psicopatie sessuali, molto meglio che qualsiasi critico specializzato o giornalista specializzato nel momento o nel linguaggio audiovisivo, no? Cioè, è incredibile, è una recensione perfetta. E quella è stata assolta. Poi non so che cosa è successo, che il Tribunale di Brescia ha scritto la tesi, no? Cioè, e lì abbiamo il secondo grado. Il secondo grado. Abbiamo dovuto continuare. Innanzitutto ti dico, cioè, il nostro era lottare per qualcosa, perché se no crede che se ci succedeva che quello restava accusato, involontario, creavo precedenti. E questo precedente sarebbe gravissimo per tutti i prossimi anni, per le prossime pubblicazioni. E da lì che no, io come editore insistevo su questo, su accentuare sulla libertà completamente istruzione. Perché in quello c'è tanta gente, c'è da intellettuali, gente comune, che ha posato. Addirittura ho creato, diciamo, attraverso più di 100 illustratori italiani, una mostra ad hoc, no? Cioè che ognuno ha fatto le illustrazioni, la mostra l'abbiamo chiamata solo sì, proprio per questo motivo. E quella mostra è girata praticamente tutta Italia, no? Un po' era per raccogliere fondi, sempre per gli avvocati, e un'altra per dimostrare che eravamo presenti, cioè, con un linguaggio, con il, che è il fumetto, che è l'illustrazione. E dimostrare che la libertà non si può cancellare un giorno all'altro così per il capriccio di un giudice. Questo è. Non so se ho risposto. No, assolutamente. Non so se sono domande. Io lo chiedo una cosa a Francesco, che è questa. Quando una forma d'arte, anche antagonista, no, prende il fatto che il potere o reagisce a una repressione oppure cerca di implorarla. In tanti comuni negli ultimi anni si è verificato questo episodio, questo è fatto. Non sono contrario alla tua forma d'arte, però la devi fare determinati fatti con determinati fatti. Per esempio a Milano, non so se avete presente, sotto passo di stazione Garibaldi è stato assegnato mi pare delle classi di giornalisti con l'anno di dipinto. Ecco, questo fatto che alcuni hanno aderito a questo, no? E sono sottoposti, come dire, a queste regole, ha provocato un po' una spaccatura nel movimento di writers, un dibattito, perché quello è anche lo scopo del potere, no? Dire ci sono i buoni, ci sono i cattivi, no? Sì, assolutamente. Considera che mi metti in un ginepraio, nel senso che per alcuni ogni volta che scendo, diciamo, a patti con il potere, quindi con il potere urbanistico, sto tradendo quella che è l'espressività spontanea della creatività urbana, cioè faccio una professione. Io in un documento che ho recentemente compilato per il MIBAT, parlo infatti, cioè sono inserito infatti nelle riflessioni sulle nuove forme di muralismo. Perché nuove forme di muralismo, il muralismo è sempre esistito ed è sempre stato commissionato, per cui sto usando un linguaggio espressivo che è antisistema, adeguandolo a quelle che sono le necessità comunicative, diciamo, di un governo cittadino o di un'istituzione, eccetera. E questo logicamente ha dei problemi. Blue stesso ha fatto dei lavori sotto commissione, però è riuscito a non avere compromessi sui contenuti. E quindi, anzi, molti di quei lavori sono stati poi cancellati perché erano stati ritenuti dalla committenza eccessivi. Un altro problema che c'è è quello dell'utilizzo che si fa delle opere di street art, di creatività urbana, che sono strappate dal contesto che le ha prodotte e portate in una galleria nella quale per accedervi devi pagare un biglietto. Quindi logicamente tutto cerca di essere poi, appunto, su tutto fatto confluire all'interno di processi economici registrabili e di ricchezza. Un altro problema che accennavo è quello della frammezza urbana, cioè io ho la periferia delle case popolari, chiamo il driver di Grido che viene, progetta un intervento, non parla nemmeno con le persone che abitano lì e poi, ah, che bella la street art, ma quello stesso intervento non sarebbe permesso nel salotto buono della città. Quindi ecco che si cerca a livello di urbanistica di funzionalizzare, di situare questi interventi e anche di dargli una gerarchia rispetto a delle forme di espressione architettonica, per esempio, o di arte pubblica che sono considerate più nobili. Secondo me bisognerebbe sempre cercare di evitarlo. Logicamente c'è la possibilità anche di fare di operare bene facendo delle azioni che siano magari commissionate pure dalle istituzioni, ma che non cedano mai nel compromesso che è quello che è il rapporto umano con la comunità, perché se no nulla, diventiamo dei novelli pittori rinascimentali che siamo convocati dal nobile per... Spero di aver risposto. Quest'ultima cosa, dal mio punto di vista, ovviamente importante essere presente in non annacquare il contenuto, ma allo stesso tempo c'è anche sempre da porti un po' la domanda su con chi ti stai interfacciando, cioè nel senso che spesso poi ti arrivano magari commissioni da l'aspetto comune di Milano, che poi è quello che magari porta avanti dei processi con dei tuoi amici che fanno le scritte con te, allora a quel punto dici va bene, tu magari non mi hai anche il contenuto, però la mia legittimazione a fare quel pezzo legale diventa poi il legittimare il fatto che chi invece lo fa fuori da quel muro venga perseguito. Quindi cioè, sono d'accordo sul fatto che bisogna ovviamente tenere il caso e poi il contenuto è sicuramente la cosa peggiore, però allo stesso tempo anche porti la domanda, quello che sto facendo, quanto può influire sul resto della mia comunità, e di comunità non parlo solo di tutta la comunità di centro, ma proprio della comunità di gente che scrive sui muri, la stessa cosa quanto può poi dopo invece andare a influire su gente che invece decide o non ha l'opportunità oppure decide che non lo vuole fare. Ma certo, perché il rischio è proprio quello di dare agibilità politica a soggetti che non devono avere agibilità politica, per cui se scendo a questo compromesso mi metto quasi sicuramente in una situazione di forte difficoltà, perché ho come interlocutore quella stessa istituzione che poi perseguita persone che fanno le stesse attività mie e che magari per una scelta di loro coerenza dell'agire politico subiscono una maggiore repressione, forse perché non scelgono di essere particolarmente esposte mediaticamente, per esempio, perché ci sono persone che attraversano lo spazio urbano che decidono di non agire sui media, sui giornali, eccetera. Quindi sì, quello che tu dici io lo condivido assolutamente. È una cosa che chiunque faccia agitazione culturale deve sempre considerare. Ho un collettivo a Spezia con il quale ci occupiamo di poesia performativa e questo è un problema all'ordine del giorno, perché ci capita che ci chiami un comune o qualcun altro e che cosa fai? Non è sempre facile dare una risposta, anzi a volte ti accorgi che hai sbagliato, perché viva Dio, se si opera in un certo ambito che è così complesso, è giusto anche, tra virgolette, è giusto anche sbagliare. L'importante è poi essere consci del fatto che si è fatto. C'è un altro elemento più di carattere psicologico che subentra quando l'artista diventa diciamo sovvenzionato da degli stupidi di dispositivi istituzionali, no? Il più delle volte, soprattutto per i ragazzi che vengono da situazioni periferiche, che sono proletari, sottoproletari o comunque dei lavoratori, diventa il fatto che è facile che poi quella ispirazione, quella forza sovversiva che aveva la sua opera d'arte venga inglobata anche dal punto di vista personale, perché magari uno è arrivato e non riesce più. E in particolare su questo libro qui della poesia di strada, noi abbiamo pensato di far emergere la figura di Ivan, perché è particolare. Ivan lavora tantissimo per comuni in tutta Italia, ma anche in tutta Europa praticamente, ha fatto questo lavoro. Però lui per primo ha capito che non può mollare, tu dicevi, la sua comunità, però lui non soltanto non può mollare la sua comunità, infatti il suo studio è vicino alla Barona dove è nato e comunque rimane con i piedi ben saldati nelle periferie, nelle sue origini. E dall'altro lato è anche una persona intelligente che capisce che deve continuamente sperimentare. Per sperimentare deve per forza varcare delle limiti di quelle legalità che parlavo prima, entrare in una zona di vita che non sa se è legalità e illegalità. Solo lì avrà nuove ispirazioni, solo lì potrà incontrare anche altri suoi amici, amiche che stanno facendo quel percorso magari dall'inizio, e condividere in qualche maniera quel modo di fare della propria arte anche un'avventura, una vita di avventura. E questa è la questione. Certo, sicuramente la maggior parte poi degli street artisti adesso vanno a fare Titanudo, per esempio, lo conosciamo tutti, no? Ha fatto i 45 piani della torre che c'è a City Life, tutti graffittati, con tutte le cose, anche un lavoro della Madonna, mastodontico e tutto quanto. Indubbiamente. Per quanto ci riguarda, perché siamo appassionati di arte sovversiva, è chiaro che noi andiamo a vedere un percorso tipo quello di Ivan, perché è un percorso che ci dà la possibilità di entrare in una dinamica dove il profitto è comunque secondario, è la questione del profitto. Rimane a galla invece la voglia proprio di esprimersi, di dire la propria, di provare a soffiare dentro a una dinamica minimamente trasgressiva che si sta sviluppando nella tua comunità o nel tuo movimento di riferimento. Questo è importante capirlo, perché in tutto, nella musica succede nell'editoria. Io provengo da una piccola casa editrice che si chiamava Shea, che comincia a fare successo, è arrivato il padrone Terzinelli e ci ha offerto un piatto di lenticchie, e metà del nostro gruppo è andato per questo piatto di lenticchie. È normale che succeda una cosa così. Non puoi nemmeno prendertela con chi e i tuoi vecchi soci o amici che hanno preso quella strada. È il dispositivo, quello, il padrone che ti viene a via a offrire quel piatto di lenticchie. E se da una parte potresti anche pensare di seguirlo, dall'altra parte devi stare attento a non perdere tutto il tuo potere trasgressivo, le idee che ti sono venute dentro a un movimento, una situazione in moto che continua a imparare cose nuove, e magari portarle anche in termini diametralmente opposti a quello che ho scritto. Poi c'è anche la realtà all'interno del libro di Evelyn, che è un collettivo che c'era a Milano, che si ispira ad altre cose, all'automatismo urbano, insomma, ci sono veramente molte esperienze raccolte all'interno del libro e che secondo me possono dare un'immagine di eterogeneità dell'esperienza. Considerate che io sono molto affezionato a un'espressione di Fortini che definisce la poesia come la forma espressiva più anticapitalista che esista, perché quando compongo una poesia è un lavoro che richiede centinaia, migliaia di ore e che non genererà mai valore. E quindi ecco che lo spazio nel quale costruiamo un nuovo linguaggio, nel quale ogni autore individua un suo idioletto, cioè un modo unico di produrre significati, è già di per sé antisistema, perché non può scendere a compromessi con tutta una serie di imposizioni che possono esistere, per esempio, nella narrativa. No, infatti la poesia è sempre stata relegata in un ambito dalla torre d'avorio universitario. Lì, no? E invece la poesia può essere come una canzone musicale, come può essere come un fumetto, volendo. I movimenti della poesia di strada indubbiamente hanno avuto questa intuizione di puntarlo, e questo ha funzionato creando un vero e proprio movimento, in qualche maniera, e invitando tutti a essere parte di questa cosa, perché cioè, la funzione poetica del linguaggio appartiene a tutti. Cioè, il bambino che per la prima volta si stupisce di Sole, Cuore, Amore, per lui quella è poesia, perché quei suoni specifici si fisseranno nella sua memoria e vi sveleranno un mondo che per fino a quel momento per lui non era esistito. Poi, logicamente, affrontando le parole nel corso della sua vita, giungerà ad altri usi e a innescare persuasioni. Sì, no, comunque noi come agenzia X sulla poesia ci stiamo lavorando da un sacco di tempo, perché anche soprattutto con la performance, la poesia di performance, il premio Dubito, lo sappiamo tutti che facciamo così, e noi ci siamo ritrovati spesso anche il libro con Mr. Kaufman abbiamo presentato quando facevamo il Ferlinghetti Corner e situazioni di teatro, che erano delle grandi feste fatte nei luoghi dove la città si stava risvegliando questa primavera, no? Forse l'ho già spiegato, si stava risvegliando, allora c'era soltanto i commercianti che vendevano la birretta ai poveri cristi che avevano voglia di socialità, e la cultura era sparita. Quindi noi entravamo con questa incursione poetica sostanzialmente, e dalla parte volavamo le nostre poesie, una in particolare di Ferlinghetti che era appena morto, e c'era questa causa che si svegliava nei luoghi dove la gente della movita proprio. Questo è abbastanza interessante, un'incursione veramente che ha funzionato, che non ha fatto freddo, adesso non so se lo riusciamo a più fare purtroppo. Però questa primavera potremo farlo, e non c'è dubbio che riguardo al discorso che ho fatto prima a lui, chiedevo appunto la poesia di strada, no? A un'idealità che va contro appunto al concetto di noi. Tu fai una commissione legale da Danno, cioè assegnata per esempio al Comune di Milano, non incorre quello che stai dicendo prima per differenziare il suo lavoro, perché fai perdere il significato che aveva di presenza contro la commissione per la quale poi stai lavorando. Sì, e ti dirò che chi in genere opera su questi due livelli lo fa con linguaggi espressivi diversi. Cioè, che quando fa un lavoro illegale lo fa con una espressività e eloquenza nella parola di un certo tipo, e quando è chiamato per esempio a fare invece un'opera più decorativa porta un altro percorso, un altro profilo di produzione. E oltretutto considera che c'è anche una dualità ulteriore, cioè che chi interviene, penso anche a Ivan, nell'illegalità, quando lo fa con colori acrilici che deperiscono rapidamente, che sono dilavati dall'acqua piovana. Perché? Perché ci deve essere una rigenerazione continua delle superfici. Quindi io non mi approprio di quel pezzo di città e lo faccio mio e l'ho colonizzato. Lo lascerò col passare di qualche stagione ad altri che vorranno esprimere. Secondo me questo è stato molto il concetto che c'è negli arti, del dei temi. Certo. Sì, ma la questione dei treni era proprio anche simbolica dei treni che attraversavano il centro e tornavano in periferia. In periferia venivano dipinti e poi spostavo la periferia in centro. Proprio l'assalto allo cielo, le culture sono sempre state così. Assaltare il salotto buono della borghesia, no? In qualche maniera, rompere quell'armonia. E devo dirti che comunque, anche se fosse delle poesie che sono state sponsorizzate dal comune tutti quanti, e sono sempre meglio delle pubblicità, in ogni caso, bisogna calcolare anche questo, perché è importante, no? Perché se io vado in questi strade desolate piene di gente sola, oppure non so, un pezzino di riferimento del filo della birra e viene sfruttato in tutte le maniere, se c'è una poesia per strada, cioè ci mette già buon umore, è come il buster, no? come quelli che suonano nei metropolitani, in Belgio. A me, poi io cerco sempre di dare qualche piccolo del testo, perché secondo me rompono un po' la monotonia, l'isolamento, il digiune anche. C'è un artista che suona, c'è un poeta che scrive una poesia sul muro. Comunque, in ogni caso, anche se questa fosse pubblicità, fosse un parlato comune, chi me frega meglio sarebbe, piuttosto che fare i commercianti che hanno rotto i coglioni per anni, che non dice che non si potevano togliere i parcheggi da automobili, adesso è arrivato il Covid, e hanno occupato quegli stessi spazi loro per farci ancora più grandi. Cioè, è terribile, no? È terribile. Poi la discussione si potrebbe anche arrivare alle questioni di adesso, anche sulla questione dei dispositivi politici che si stanno imponendo a partire dal Green Pass, si potrebbe arrivare fino a quel punto, perché la situazione, adesso parlare delle la repressione che ha subito la Topolino di Schioni o Livano il Poeta fa parte quasi un po' del passato, se ben ci guardiamo davanti a quello che sta succedendo in questi giorni, in questi ultimi tempi, da quando è partito il Covid e quello che sta succedendo adesso. Quindi in ogni caso nelle città che ci sono mille poeti di strada, mille writer, anche skateboard e mangia fuoco, sarebbe comunque una città più visibile in ogni caso. Poi l'amministratore comunale sicuramente non la pensa in questa maniera. Ecco, cerchiamo di non correre il rischio di diventare come la Coca-Cola, nel senso, io scrivo come fossi una stampante la stessa identica cosa ovunque, perché l'unica mia interesse è occorrere in certi luoghi e quindi gettare il mio predominio, cioè essere ostaggio psicologico di altre forme di dominio, perché nel mondo, diciamo, della creatività urbana ci sono stati anche fenomeni così. L'importante era comparire ovunque come un brand. Questo secondo me è da problematizzare. Bisogna fare tanto, bisogna coprire ogni superficie disponibile, ma sempre, secondo me, individuando una progettualità. Però questa è un'opinione mia, possiamo anche avere un'opinione differente riguardo. Continuo un po' ostico. Writer di destra, musica di destra, come lo mettiamo tutti questi? Basta cancellare quello che fanno per strada. Io trovo, nella mia città c'è uno di Casa Pound che adesso si è messo a fare creatività urbana. Io, se mi trovo di fronte a un suo lavoro, lo stacco, pieno centro di giorno, basta. Nel senso, è una questione di, non di battaglia automatica, ma di comunque di immaginare, perché so che quelle figure che lui utilizza poi veicolano certi significati, che sono nostalgici, che sono patriottardi, eccetera, eccetera, che utilizzano anche il senso di comunità per deviarlo su altre cose, per deviarlo sulla costruzione di nemici. Allora, o lo copro o lo cancello, nel senso, secondo me è questo il tema. Cioè, chiunque può utilizzare un linguaggio espressivo di un certo tipo, che nasce in un ambiente che può essere quello, diciamo, della sinistra, o comunque antisistema di sinistra. Poi, nel momento in cui identifico che quella è un'operazione di appropriazione di alcune pratiche, intervengo. Cerco di intervenire in quello che, per quello che mi è possibile. Graffiti di destra ci sono sempre stati, cioè, i movimenti, diciamo, di estrema destra universitari non hanno mai avuto paura di scrivere slogan, di celebrare i loro riferimenti nello spazio urbano. Si va e si copre. Ma almeno io la vedo così. Non ci sono altri interventi, giusto solo una cosa, cioè fai lo stimolo che era anche interessante e poi si riconnette magari con alcune cose che succedono anche nella nostra città o di quale aspetto. Secondo me il passaggio interessante è che la nostra comunità, la nostra stessa che sia l'istituzione di intervenire in questo caso, diventa un meccanismo di protagonismo di intervento nello spazio urbano, anche come dire la copertura, la riqualificazione e via dicendo, un intervento di questo tipo. No, io questo tema qui l'ho affrontato oltre senso, però è anche questo movimento che il movimento non fa, dove le cose sono mischiate effettivamente dalla destra, dalla sinistra, dalla sinistra. E quindi ovviamente la cosa è così tanto facile da gestire. Facile da gestire, perché ovviamente se si va a Milano si trova tranquillamente, da chi si porta la Grandierina, dell'Italia, con il Congressale dello Stato, chi si porta a Mandolina e si trova anche la sua invece completamente nell'altro posto. Sì, no, perdonami. La situazione è troppo, dove effettivamente le cose si stanno cercando in una maniera orribile. Per me è stato da discutere questa cosa. Sì, anche perché in ogni caso devo dirti che diciamo le pratiche writer, diciamo così, per intenderci, che comprendono sia la poesia di strada che i graffiti, hanno proprio una loro origine che nasce nel bisogno proprio dei ragazzi più giovani, delle giovani generazioni, di staccarsi dalla situazione di difficile in cui proprio questa è la radice storica delle controculture, no? L'assalto al cielo, quindi sono tutti figli di proletari, e in questo senso la controcultura si pone nel momento in cui questi ragazzi iniziano a fare un percorso politico. E lì, in quel momento, è chiaro che la contraddizione, no? I sociologi lo chiamano sottocultura al posto di controcultura. Io rifiuto il termine sottocultura perché è un termine, io sono libertario, sono un anarchico, quindi non mi pongo sopra qualcosa. Quindi per questo conto culturale, perché il ragazzo che ascolta il disco dei Sex Pistols incomincia a sviluppare un percorso suo anche di formativo che lo porterà poi ad apprendere la controcultura in sé. Il termine anche contro dice tutto. E quindi anche nel punk c'era quello che al posto di ascoltare Anarchy in United Kingdom guardava la svastica che portava Sid Vicious. Tutta la storia del virus di Milano era costellata comunque da alcuni di noi che prendevano la deriva nazista, no? Siamo the skin, no? Quindi fa parte così, è normale, quando uno ha questa sua difficoltà di esprimersi anche dovuto al quartiere di merda che è nato, una famiglia che magari era distrutta, lavoro, disoccupato, tutto quanto, ha questa tendenza di tirar fuori la propria rabbia. E lì è il momento in cui le controculture agiscono. Ecco, il dispositivo di risignificazione che hanno proprio nell'immaginario, nella questione simbolica, le controculture lo pongono in questo senso. E è lì che poi magari uno fa la scelta di capire che il fascismo, il nazismo non è nient'altro che il cane da guardia del padrone, quello lì poi non mette. Non bisogna troppo, secondo me, neanche andare a cancellare le cose che lui diceva, andiamo lì e cancelliamo. Sono proprio le pratiche della controcultura, più fai le cose insieme più ti rendi conto che quello è il percorso da fare. Arrivando al non green pass, e qui è sempre difficile parlarne, siamo in una fase così complicata, che non bisogna troppo stare ad ascoltare i pennivendoli che dicono che quelli sono movimenti infiltrati dai fascisti. C'è stata un'infiltrazione dovuta anche al fatto degli stessi politici, visto che qui litigano tutti, tutte le comunità, anche perché facciamo questa serie di incontri che chiamiamo la comunità rossa, no? Perché tutti che litigano. L'altro giorno ho sentito che un raduno di buddisti si sono picchiati tra Sivasso e Novasso, per dirvi, no? Famiglie distrutte, associazioni incasinate, cioè appunto i buddisti che si picchiano tra loro, cioè, quindi la situazione è bella complicata. Nelle manifestazioni no Green Pass c'è anche uno spirito proprio al loro interno di ribellione verso questo dispositivo politico che ci sta facendo litigare, che non si capisce ancora perché c'è in realtà. E lì c'è dentro un po' di tutto, una contraddizione unica, e ci sono sicuramente tentativi della destra di metterci il cappello, come sono sempre stati, ma non è così. Ci raccontano tante palle, non è facile neanche andare per noi militanti dei centri sociali a quelle manifestazioni, perché poi rischiamo addirittura di essere arrestati solo come quelli che siamo noi che le guidiamo, quindi anche questo potrebbe successo, ai compagni che hanno subito delle perquisizioni solo perché sono andati a guardare e vedere le manifestazioni. E quindi la situazione è molto difficile, ma non stiamo troppo a pensare che quello lì sono solo di destra, non tanto. Ci sono tante famiglie di polizia all'interno dei cortei contro il Napa, ci sono tante famiglie di polizia, per esempio. Non è un argomento di stasera, però vorrei dire una cosa su questo, almeno a mia opinione. Questo è un argomento ancora molto inesplorato. Accetto il fatto che i no Green Pass o i no Vax non sono tutti pacifici, c'è stata un'infiltrazione. Però faccio un ragionamento. Io vengo qua in questo luogo perché è un luogo libero, vengo senza mascherina e tutto il resto. Ma siccome noi tutti abbiamo una vita sociale, andiamo sui mezzi pubblici, cioè andiamo al lavoro, io credo che in una situazione come questa, che è estremamente confusa, come precauzione certi strumenti debbano essere usati per rispetto di me stesso e per rispetto agli altri, perché non posso pretendere il posto di lavoro siano tutti come me. Poi posso discutere che il no Green Pass sul posto di lavoro sia eccessivo, ma imbarcarmi, diciamo come compagno, in una lotta così su questo argomento, sì, lo sono d'accordo. Mi sembra assolutamente fuorviante, no? In questo periodo storico, no? Io credo che una posizione di sinistra sul nome di impasto, vedo sui bacini, sia precauzionalmente sbagliata. Ecco, io vorrei dire un'ultima cosa su questo e su tornando il discorso destra e sinistra che si iniziano in questa epoca storica, dove c'è una parte di sinistra destra e di sinistra si sovrappongono uguali, no? Quindi per cui non è vero che la sovrapposizione di questo stesso è di sinistra o di destra, perché si chiudono le stesse pratiche, quindi per cui succede che il driver poi è di sinistra, di destra, il musicista poi è di sinistra, poi è di destra, poi c'è un'altra cosa di un'altra volta. Quindi è questa sovrapposizione che io vorrei affrontare. Secondo me la sovrapposizione che tu suggerisci c'è, ma si limita alle pratiche. Poi dietro a quelle pratiche c'è un percorso di consapevolezza che situa quelle pratiche. Per sua definizione, il neofascismo è uno spazio di agitazione di movimento sociale, perché questo si definisce, che va a parassitare tutte le pratiche efficaci per produrre persuasione. Quindi è uno strumento, è un luogo che deve essere affrontato, secondo me, attraverso le lenti dell'analisi dei fenomeni persuasivi di propaganda. Perché dietro a quello non c'è niente. Prendo tutto ciò che è più affascinante, che è più emotivamente efficace, quindi adotto questa fallacia argomentativa dell'appello alle emozioni, ma dietro tutto questo non c'è nulla. C'è il potere, c'è la difesa di uno stato quo, che raccoglie tutte quelle che sono delle pratiche nuove e che agiscono contro lui stesso, le fa sue in termini di linguaggio passivi, e il meccanismo in questo esercizio. Questo secondo me è il motivo per il quale abbiamo una perfetta sovrapposizione di anche alcune parole d'ordine, perché anche in quelle che sono i flyer, quella che è la propaganda che si fa nell'università, per esempio, possiamo trovare fatti non conforme, controcultura all'interno di produzioni che sono inizialmente dei. Però che cosa c'è dietro? C'è esclusivamente un dispositivo di controllo che rilascia da se stesso e assorbe tutto ciò che è efficace dal punto di vista del suscitare emozioni. Tutte le forme reazionarie, fasciste e il nazismo stesso logicamente, si basano su questo esperienza retorico, suscitare emozioni, le emozioni più forti possibili, in modo particolare la paura, che è uno degli strumenti di propaganda. Quindi, se io faccio una campagna, diciamo, su tematiche ambientali e faccio un appello alle emozioni che suscita paura nelle persone, per esempio dell'energia nucleare, lo faccio però con un procedimento teorico, un percorso che mi ha condotto a dover utilizzare quello che è l'ultimo strumento a disposizione dell'azione politica. Dall'altro lato no, dall'altro lato vedono, ah cavolo, ma questo è uno spaventato sull'energia nucleare, che figo, sai quando riesco a portare dalla mia parte spaventando le persone, userò la paura in un altro modo. Questa secondo me è proprio, c'è una differenza, diciamo, di carattere retorico e di linguistica testuale, la disciplina della linguistica testuale applicata al discorso politico analizza questo tema. Vabbè. Per concludere anche perché io devo andare. Volevo concludere questo argomento interessantissimo con una breve, diciamo, cronistoria molto breve, che è fatto darmi, del film, molto ringrazio che verrà presentato stasera, e appunto per agganciarci un po' a Mani Ponte per quello che verrà appunto presentato stasera qui dentro. E niente, Colpo di Grazia cos'è? Colpo di Grazia è un film che la cui regista è la svedese Skyler Grey, ed è stato girato a Monza con una serie di personaggi che, diciamo, ricalcano quelli che ricalcano dei ruoli all'interno del comune e all'interno dell'urbanistica monzese. e i personaggi sono per l'appunto i personaggi di finzione, sono Martina Fedeli, gli Intervatori, Enzo Boschi e ovviamente il personaggio positivo di Libero Magnetti, e appunto questi loro destini si incrociano in via della Lana, dove deve essere eretto questa nuova palazzina, che però appunto caccia la via Libero Magnetti dal suo dalla sua casa. Questo è un po' uno spoiler. Introduzione con lo spoiler. Comunque, la cosa succede a questo film, l'abbiamo dato qui in Boccaccio stasera, perché ci sembrava appunto rappresentativo di un certo dispositivo repressivo che usa l'istruzione nei confronti di un'opera artistica. Un'opera artistica tra l'altro di finzione. La storia di Corpo di Grazia è iniziata il 7 febbraio, quando viene proiettato per la prima volta su YouTube, sulle piattaforme streaming, il primo episodio. Tra gennaio e marzo succedono principalmente due cose. Innanzitutto la stampa, in particolar modo la stampa italiana di Monza e di Monza, incomincia a parlare di questo film. Un articolo del Cittadino viene addirittura censurato il giorno stesso che inizia a parlare, diciamo, in maniera didascalica, in qualche modo anche un po' positiva, di questo thriller psicologico e giallo sull'affaristica monzese. E l'altra cosa che succede è che il sito di Colpo di Grazia viene oscurato dalle autorità, non permettendo quindi alle persone di poter accedere ai contenuti della storia, ai contenuti che riguardavano i personaggi e così via. Fino al 4 marzo, quando appunto il sindaco Allevi ha denunciato il film, ha denunciato Colpo di Grazia per diffamazione, perché a quanto pare alcuni esponenti della classe politica monzese si erano, non si sa perché, riconosciuti nella finzione del film, cioè si erano molto probabilmente riconosciuti in delle pratiche che appunto non che secondo noi ovviamente sono secondo noi, secondo tutti, sono sbagliate. E niente, la produzione di Colpo di Grazia risponde alle accuse, di diffamazione con dei comunicati che potrete leggere anche lì in maniera più informata, più dettagliata, dopo chi vuole può prendersi tutti quei materiali. Ma appunto la cosa più grave che succede è che due collaboratori del film subiscono un vero e proprio sequestro, nel senso che la polizia entra in casa di questi due collaboratori e sequestra dei materiali che secondo loro potevano essere affiliati, diciamo, alla produzione del film. E per l'appunto l'ultimo, diciamo, oltre al sindaco e all'assessore all'urbanistica, anche Giambelli, un noto costruttore monzese, si mette in squadra con il comune di Monza e decide di denunciare il film. Tutto questo succede in praticamente 3-4 mesi, da gennaio, anzi 3-5 mesi, da gennaio fino a maggio. E Colpo di Grazia riacquisisce un sito sul dark web, dove è ancora disponibile per la visione, e niente, quindi noi abbiamo voluto portare questo film di questa produzione appunto per come esempio massimo, perché ci ha coinvolto direttamente come cittadini di Monza, come esempio massimo di come il potere riesca in qualche modo a reprimere un prodotto che è di pura fiction. Secondo me è stato un fatto gravissimo, perché vuol dire davvero troncare un'opera di protesta, di denuncia, di fatti che avvengono quotidianamente in questa città. E niente, quindi chi vuole poi può andarsi a leggere la storia in maniera più dettagliata sui volantini, e invitiamo tutti ovviamente a rimanere per la proiezione, nonostante abbia fatto uno spoiler. E appunto ci sarà anche l'intervento della regista, ovviamente filmato, che appunto spiegherà un po', dopo tutte queste vicissitudini, il significato di proiettare qua a Monza oggi il film. Quindi vi ringrazio ancora per essere venuti. Dopo l'incontro c'è stato un intervento di Skyler Grey, la regista del film Corpo di Grazia, e ha spiegato più o meno quello che è successo tra i mesi di febbraio, marzo e aprile di quest'anno, con i provvedimenti nei confronti di due membri della produzione, accusati di diffamazione, e ai quali sono stati anche sequestrati gli hard disk dove vi erano le puntate di Colpo di Grazia, perché prima Colpo di Grazia è stato un racconto a puntate, dopodiché la produzione ha deciso di trasformarla in un unico film. Chi ha denunciato sono due personaggi che si sono sentiti coinvolti all'interno della narrazione: l'assessora Martina Sassoli di Monza e il costruttore Giambelli, che non hanno gradito la narrazione, pur non capendo che era un discorso di pura finzione. Adesso i processi sono ancora attivi. Skyler Grey ci ha tenuto a precisare che lei, un confronto con i due denuncianti, con i due querelanti, è assolutamente disponibile ad averlo, e richiede lo sblocco degli account Facebook e del sito di Colpo di Grazia, e la possibilità di poterlo farlo proiettare in ogni luogo, perché essendo un film di finzione non si capisce come questi due personaggi delle istituzioni monzesi si debbano minimamente sentire coinvolti dalla narrazione del film. Inoltre, alla fine dell'intervento ci ha tenuto anche a ringraziare i ragazzi e le ragazze della FO Boccaccio per la solidarietà e l'aiuto che hanno dato dopo soprattutto la denuncia da parte delle istituzioni. Ricordiamo inoltre che il film sarà presto disponibile sul nostro blog malaradio.noblogs.org. Dentro il tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore. Bene, la vita è breve pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene a chi ha la luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta. Sai che mi conviene fingerti non sapere che il mondo è verticale e vai giù insieme alla tua tempra morale che teme di invecchiare e di dimenticare come si cambia in fretta.